Buongiorno. Buongiorno, buona domenica, benvenuti a questa seconda delle nostre lezioni di jazz. Le prime due, vi ricordo, sono programmate in concomitanza con il Roma Jazz Festival, che ha come tematica quest'anno il jazz e il ballo, e quindi le prime due lezioni sono legate al mondo dello swing. Vi ricordo che la scorsa lezione è stata su Count Basie, e quest'oggi invece dedichiamo la nostra lezione a quella particolare parte del nostro ciclo che chiamiamo Viaggio nel capolavoro, cioè proviamo a entrare nelle pieghe di un brano famoso di jazz, importante del repertorio, per capire come funziona. E dovendo scegliere qualcosa che appartenga storicamente a un'era, diciamo, prebellica, prima della Seconda Guerra Mondiale, in linea con appunto il Roma Jazz Festival, ho pensato di affrontare con voi oggi un brano straordinario che è Summertime, nella interpretazione di Sidney Bechet. Adesso vedremo cos'è Summertime, chi è Sidney Bechet, ma la prima cosa che vorrei fare con voi è ascoltare il brano che sarà al centro della nostra chiacchierata di oggi. È un disco Blue Note, registrato a New York l'8 giugno 1939, da un quintetto a nome di Sidney Bechet, con il chitarrista. Bechet suona il saxoprano qui, poi vedremo cos'è questo strano strumento, il chitarrista Teddy Bunn, il pianista Mad Lux Lewis, il bassista Johnny Williams e il batterista Sidney Catlett. Summertime credo che più o meno lo conoscete tutti, è un pezzo celebre, ma adesso ripercorreremo anche la storia di questo pezzo, ma intanto ascoltiamoci insieme i 3 minuti di questo capolavoro. Thank you. pezzo straordinario. Partiamo da Summertime. Cos'è Summertime? Summertime è un'aria, non è una canzone. Oggi noi la conosciamo come una canzone che ha una sua storia autonoma. In realtà è un'aria d'opera. E non è un'aria d'opera qualsiasi, è l'aria d'opera che apre Porgy and Bess, il grande capolavoro di George Gershwin. Cos'è Porgy and Bess? Porgy and Bess è un lavoro scritto da George Gershwin, con la sua musica, con un libretto dell'autore della storia, perché era tratto da un romanzo che diventò un'opera teatrale, e poi Gershwin, dopo aver visto l'opera teatrale, acquisì i diritti del romanzo per farne una trasposizione operistica. L'autore si chiamava dell'opera del romanzo, il romanzo si chiamava semplicemente Porgy, scritto a metà degli anni 20, si chiamava DuBose Hayward, e invece i testi delle arie furono scritti dal partner quasi fisso di George Gershwin, cioè il fratello Ira Gershwin, che era un grandissimo uomo di penna, un grandissimo letterato. Qui li vediamo proprio da sinistra a destra, Gershwin, DuBose Hayward e Ira Gershwin in una foto pubblicitaria con delle dediche proprio in occasione di Porgy and Bess. Porgy and Bess è la storia di una piccola comunità di pescatori nel sud degli Stati Uniti, nel South Carolina, Catfish Row, è questa piccola comunità, nella quale in questa comunità di pescatori poverissimi afroamericani, neri, si consumano una serie di tragedie, la più importante delle quali è l'amore fra un uomo nullatenente, perché invalido, zoppo, che è Porgy, e questa bellissima donna, Bess, che però è una donna perduta, che si lascia sedurre da uno spacciatore di sogni e di droga, che è Sporting Life, e che poi alla fine deciderà di seguire verso New York, e lo stesso Porgy, perduta la sua amata Bess, deciderà lui stesso, alla fine dell'opera, di avviarsi verso un altrove alla ricerca di Bess. L'opera si apre con il sipario, si apre e abbiamo Catfish Row, che è questa comunità, diciamo, faccio vedere una foto di scena dell'epoca, della prima, 10 ottobre 1935, dopo delle anteprime fatte a Boston, l'opera aprì a Broadway, all'Alvin Theater, il 10 ottobre 1935, si apre la scena, troviamo questo villaggio di pescatori, c'è un pianista che si chiama Jazz Bob Brown che suona un pezzo, scritto appunto ovviamente da Gershwin, e dopodiché l'atmosfera si quieta e c'è Clara, che è uno dei personaggi dell'opera, che canta una ninna nanna al suo bambino. Poi leggeremo il testo. Questa ninna nanna sostanzialmente dice, invita il bambino ad addormentarsi immaginando un mondo da favola, in cui tutti sono felici e tutti stanno bene, anche se questo contrasta con la dura realtà del villaggio. Come prima introduzione a Summertime originale vorrei farvi ascoltare una registrazione formidabile, è una registrazione della prova generale dell'opera con un annunciatore che l'avevano fatto praticamente per la radio, un annunciatore che annuncia Gershwin, sentirete poi la voce di Gershwin che spiega che l'opera comincia con questo assolo di pianoforte e poi va avanti, dopodiché sentirete Gershwin suonare il piano in questo inizio, l'inizio in crescendo e poi la voce della cantante dell'epoca, siamo nel 1935, che canta Summertime. Quindi questa è la prova generale prima del 10 ottobre 1935. George Gershwin is conducting and will announce these portions of his new opera Porgy, recorded for the first time and played for the first time. We will start with the piano solo at 9:05, because the piano has a solo lasting about 2 minutes, which we will not waste time with now. 9:05, scene one. Bye. La voce simula l'orchestra che in questo parte non ancora è pronta per entrare. Entra l'orchestra. Rapido di come siamo abituati a sentire. Questa è la registrazione appunto del cast originale durante una prova con Gershwin presente. Avete sentito che il tempo è più rapido di come poi abitualmente siamo abituati appunto a sentire l'opera, l'aria. Allora io adesso vorrei farvi sentire un'altra versione, questa volta per seguire insieme il testo. Tenete conto che Summertime si ascolta all'inizio dell'opera, è la prima aria dell'opera, ma poi ritorna più volte, almeno altre due volte, nel secondo e nel terzo atto, come a punteggiare questi momenti, man mano che la tragedia si, il dramma, forse la tragedia è una parola eccessiva, man mano che il dramma si sviluppa, ogni tanto Clara torna e canta questa ninna nanna per tranquillizzare questo bambino mentre gli eventi assumono una dimensione drammatica. Questa ninna nanna è un testo, sì, davvero da ninna nanna, scritto da Ira Gershwin, Tempo d'estate, scusate c'è un piccolo errore, non è Leavin ma Livin, è la vita è facile, i pesci saltano, il cotone è alto, e tuo padre è ricco, la tua mamma è bella, così stai calmo, non gridare piccolo bambino, non piangere, una di queste mattine ti alzerai cantando, quindi aprirai le tue ali e volerai verso il cielo. ma fino a quel giorno non c'è nulla che può, cioè prenderai la tua strada, non c'è nulla che può minacciarti perché tu hai vicino tuo papà e la tua mamma. E poi vengono ripetute le stesse parole delle prime due strofe. Noi adesso ascoltiamo una versione moderna di Summertime, in particolare quella che, peraltro vi raccomando, se nessuno ha mai ascoltato l'opera integralmente, uno dei grandi capolavori del teatro del musicale del Novecento, forse uno dei più grandi, due o tre opere più grandi, insieme al Wozzeck, alla Lady Macbeth di Mensch, ognuno poi si può fare la sua personale classifica delle grandi opere del Novecento, è una versione diretta da Sir Simon Rattle per la Decca. Quindi ascoltiamo questa versione seguendo il testo. Il tempo è più lento che nella versione di Gershwin. L'opera continua in un'altra direzione. Ora vorrei mostrarvi le fonti di Summertime, da dove viene il testo, da dove viene questa melodia memorabile. Allora, per quanto riguarda il testo, noi sappiamo che Ira Gershwin ovviamente ha pensato ad una ninna nanna, ma c'è una frase nel testo quando dice «So hush, little baby, don't you cry», ed una citazione da una canzone folk. Siccome Porgy and Bess è ambientato in un villaggio di pescatori del sud degli Stati Uniti, sia Ira Gershwin sia George Gershwin fecero un sacco di ricerche sul folklore nero, ma lo stesso DuBose Edwards, quando scrisse il romanzo Porgy e poi il suo adattamento teatrale, addirittura pensò di scrivere l'adattamento in dialetto afroamericano, cioè il testo è scritto proprio nel dialetto Gullah, che è una piccola comunità del South Carolina, di isole che sono di fronte al South Carolina, che aveva conservato all'epoca molti aspetti del folklore, anche del linguaggio degli schiavi, quindi della metà dell'Ottocento. Quindi la lingua dell'opera cerca di riprodurre quel dialetto antico. Quindi abbiamo addirittura delle citazioni dal folklore all'interno del testo. Ma l'aspetto, a mio avviso, più affascinante in assoluto è quello delle fonti musicali. Sentite questo spirito. Questa è la voce di Odetta che canta questo spiritual che probabilmente risalirà alla metà dell'Ottocento, se non prima, che è Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Avete sentito che la melodia, adesso la suono in un'altra tonalità, è incredibilmente simile a quella di Summertime. Summertime fa così. Ok? Sometimes I Feel Like a Motherless Child fa così. L'attacco è incredibilmente simile e la tradizione vuole che Gershwin, forse consapevole di questo aspetto, e molti considerano Summertime, visto che è un'area ambientata in un villaggio di pescatori ex schiavi, non sia altro che un rifacimento, un adattamento personale di Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Se vi prendete la briga di andare su YouTube, troverete una versione in cui mi pare Marion Williams, non mi ricordo più quale cantante, canta una dopo l'altra, Summertime e Sometimes I Feel Like a Motherless Child, come se fossero lo stesso pezzo. Ma non c'è solo questo, c'è qualcosa di più sorprendente che ha a che fare con questo, tecnicamente si chiama un intervallo di terza maggiore, che è perfetto per una ninna nanna, perché ha questo elemento di rimbalzo, la melodia va su e giù, è cullante, tutte le ninna nanne hanno questo aspetto, o anche le litanie, insomma questo aspetto che sta tra il parlato e il cantato, con la melodia che sale, scende, sale, scende. Questo gioco della melodia che sale e scende, in realtà non è peculiare solo di Summertime e di Sometimes I Feel Like a Motherless Child, ma è caratteristico anche di un mondo che Gershwin si portava dentro. Gershwin, in realtà, la famiglia Gershwin era una famiglia ebrea che veniva dalla Russia e questo elemento si chiamavano Gershowitz originariamente, e il vero nome di George è Jacob Gershowitz. Ora, questo elemento ebraico, Yiddish per certi versi, Gershwin se lo portava dentro. E più di un musicologo ha notato, per esempio, che c'è una ninna nanna ucraina che si chiama PPP e che fa così. Facciamo così. Voi direte, caspita, somiglia, sì, somiglia soprattutto perché c'è questo gioco. summertime, oppure sometimes I feel like a motherless child, oppure pi pi pi pi pi pi da da da. Non vi canto in Yiddish, non uso neanche, non mi sono preparato. Tra l'altro il testo testo parla di un papà che non c'è perché è andato al mercato a comprare delle cose per la famiglia, quindi dov'è papà? E c'è questa ninna nanna, anche questo parla di un'assenza, in questo caso appunto dov'è il papà. Il nocciolo è questo, di nuovo questo aspetto qui. Questo elemento ucraino Gershwin se lo portava dentro e ne era ben consapevole. Vi faccio un altro esempio che è stato scoperto da un musicista poco tempo fa. C'è un'altra canzone ebraica, Okodit Son Kolo Vikon, qui mi sono preparato. Vi faccio sentire il primo ritornello di questa canzone, cantata da una cantante ucraina moderna. Eccetera. Impressionante, vero? È anche molto simile appunto a PPP. Pensate che sembra che Gershwin abbia confidato a un suo amico, poco prima che Porgy and Bess andasse in scena, aveva chiesto, ma visto che Summertime sta all'inizio, non sembrerà un po' troppo ebraica? Visto che è un'opera invece ambientata tra gli afroamericani. Quindi evidentemente lui forse più che Sometimes I Feel doveva avere in testa una qualche melodia ebraica. Noi sappiamo tra l'altro che nel 29 lui andò a un concerto di un coro che suonò Okodit Son Kolo Vikon, che cantò questa melodia. Quindi lui comunque la conosceva, ce l'aveva in testa. È sorprendente scoprire questa intimità, questa sovrapponibilità tra il mondo afroamericano e quello yiddish, in particolare ebraico. Ora, Porgy and Bess fu accolta con reazioni un po' miste dalla critica e dal pubblico. Il nocciolo fondamentale era, caspita, abbiamo un compositore di canzoni, perché Gershwin questo era, un compositore di canzonette, di teatro leggero, che scrive un'opera, ma come si permette? Addirittura un'opera lirica. E era una cosa che travalicava assolutamente le abitudini, le consuetudini e i generi. Quindi, come dire, la reazione della critica fu mista. Gershwin addirittura fu costretto a difendersi da una serie di critiche che erano state mosse all'opera, ma già da subito uno di questi pezzi, Summertime, era diventato un piccolo successo. Perché? Perché aveva le caratteristiche di una canzone che si può estrapolare dall'opera. Questo succede, voglio dire, succede spesso nell'opera italiana, per esempio, no? Uno si ricorda La donna immobile senza pensare da quale opera che venga dal Rigoletto di Verdi. Questo successo è legato soprattutto a un personaggio a cui abbiamo già dedicato una lezione lo scorso anno, cioè Billie Holiday. Nel 1936 la giovane Billie Holiday registrò una versione di Summertime che sentirete è molto jazz, è molto lontana dallo spirito originale della canzone, per questo ve la faccio sentire, perché è completamente diversa. L'opera era stata presentata da poco e già Billie Holiday ne fa, su suggerimento evidentemente del produttore John Hammond, ne fa una versione molto jazz. Gershwin non farà in tempo a vedere il crescente successo dell'opera e di Summertime in particolare. Un tumore al cervello se lo porta via improvvisamente nel 1937, a soli 39 anni, privandoci di uno dei più grandi geni musicali del secolo. Però a questo punto nella nostra storia entra Sidney Bechet. Chi è Sidney Bechet? Sidney Bechet è il figlio di un dentista di New Orleans, quindi una famiglia piccolo borghese, di origine francese. Il cognome non ci deve sorprendere perché, come sapete, la Nouvelle-Orléans nacque come una, a metà del Settecento, nella seconda metà del Settecento, come una colonia francese. Rimase a lungo una colonia francese, poi fu passata agli spagnoli, poi per brevemente tornò a Napoleone, che poi la vendette agli Stati Uniti all'inizio dell'Ottocento. E da allora è rimasta una città statunitense, ma la cui cultura è una cultura profondamente cattolica, intrisa di Europa, in particolare di Francia e Spagna. Non solo, ma ne abbiamo parlato in una precedente lezione dedicata alle origini del jazz, se vi ricorderete, sappiamo anche che le migrazioni di profughi da Haiti tra fine Settecento e primi Ottocento di proprietari di schiavi di origine francese che scappavano dalla rivoluzione, allora si chiamava di Saint-Domingue, poi diventata Haiti, scappavano dalla rivoluzione via Cuba e raggiunsero New Orleans, erano tutte persone di lingua francese. Un altro grande musicista, per esempio di origine lontanamente francese, fu lo stesso Jelly Roll Morton, il cui vero nome era Ferdinand Lamothe. Quindi il jazz delle origini è pieno di personaggi con cognomi francesi e Bechet è sicuramente il più importante di questi. nonostante venisse da una famiglia piccolo borghese, tra l'altro il padre era praticamente il dentista di tutti i musicisti più importanti di New Orleans, lui era la pecora nera della famiglia, lo scapestrato, quello che non ha mai voluto studiare la musica, benché fosse in assoluto il più dotato. Bechet è sempre rimasto un analfabeta. Vorrei chiarire una volta per tutte che la capacità di leggere la musica, che è una cosa che si acquisisce in pochissimo tempo, è una stupidaggine, non ha niente a che fare con il talento. È come uno che impara a leggere e scrivere, ma poi non sa scrivere, che so, Delitto e Castigo. Credo che molti in questa sala concorderanno. Saper leggere la musica non ha niente a che fare col talento musicale, è una cosa che chiunque può apprendere. Bechet aveva un immenso talento musicale, ma ha fatto una vita da nomade e da scapestrato. Entrava, usciva di galera, sempre in mezzo alle risse, ha avuto delle accuse anche a volte più pesante per maltrattamenti, addirittura è stato praticamente espulso dall'Inghilterra alla metà degli anni 20, dove non è più potuto tornare. Un personaggio ribollente. Lui suonava il clarinetto e Bechet ha un ruolo fondamentale, questo lo scopriremo meglio però in una prossima lezione, che credo sarà in primavera, adesso non ricordo la data, quando parleremo dell'arrivo del jazz in Europa. Bechet ha un ruolo fondamentale per l'arrivo e la crescita, la maturazione del jazz in Europa. Lui arriva in Europa in due momenti. Un primo momento nel 1919 con la Southern Syncopated Orchestra di Will Marion Cook. Ne parleremo nella specifica lezione di jazz. Tra l'altro questa foto risale grosso modo proprio al 1920 più o meno, quindi qui lui ha 22-23 anni in questa foto con il suo clarinetto. E in quell'occasione si fece notare come un bluesman pazzesco e attirò moltissimo l'attenzione. Poi tornò in Europa nel 1925 al seguito della Revue Nègre, che era una rivista musicale americana, che arrivò a Parigi nel 1925 e aveva come stella Josephine Baker. La vedete al centro e dietro si intravede Bechet, dietro Josephine Baker, faceva parte dell'orchestra che accompagnava questa rivista. Questa rivista poi ebbe un grande successo a Parigi, anche di questo parleremo, ha cambiato praticamente perfino i costumi, i comportamenti, i costumi degli europei, e Bechet ha continuato a fare una vita da nomade in Europa tra il 1925 e il 1926, suonando in Francia, in Germania, in Italia, ha suonato anche qui a Roma, e addirittura in Unione Sovietica. Pensate, è arrivato fino a San Pietroburgo e a Mosca. Quindi ha portato il jazz praticamente ovunque. Poi è tornato negli Stati Uniti, poi nel 28 è di nuovo tornato in Europa, anche di questo parleremo, con l'orchestra di Noble Sissol. Insomma, è uno che passava continuamente tra Europa e America. Ora, durante il suo primo viaggio in Europa, cioè nel 1919, fece base a Londra e in un negozio di rigattieri di Londra, trovò uno strumento curioso, il sax soprano. Bechet suonava il clarinetto, però a un certo punto vede in questo negozio questo strano strumento, decide di prenderlo e da quel momento comincia a suonarlo alternandolo al clarinetto. Che razza di strumento è il sax soprano? Noi siamo abituati al sassofono come uno strumento curvo, che sia il contralto più piccolo, il tenore, il baritono, ma non diritto. Quando Adolf Sax, negli anni 40 dell'Ottocento, inventò il saxofono, cioè mettendo il suo nome nel nome dello strumento, come sapete, il saxofono, Adolf Sax inventò in realtà non solo il sax contralto e il sax tenore, inventò tutta la gamma di sassofoni, dal più acuto fino giù, fino al sax contrabbasso, che è un oggetto mostruoso alto 2 metri, che ha un'imboccatura così, e sono in pochissimi a suonarlo al mondo. Il sax soprano era uno di questi. Molti di questi strumenti sono rimasti delle curiosità da museo. Altri furono suonati per un po', per esempio il sax soprano veniva suonato in piccoli gruppi di sassofoni nel vaudeville, nell'avanspettacolo americano di fine 800, primi 900. C'era un gruppo che si chiamava i Six Brown Brothers è inutile andare a sentire, faceva uno schifo. Ci hanno fatto anche dei dischi, erano sono veramente terribili, non hanno ritmo, sono questi sei neri che suonano, è il primo gruppo di soli sassofoni che esiste, ascoltarli è una pena, però è, uno sente tutti, questi suonavano dal soprano al sax basso e ve lo dico perché quando sono cominciati a uscire qualche anno fa i vecchi dischi dei Six Brown Brothers, tutti dicevano, ah che bello, un gruppo di soli sax di neri, li vai a sentire, fanno schifo. Però suonavano il soprano, dopodiché questo strumento è rimasto uno strumento, una curiosità, non a caso Bechet lo trova da un rigattiere, lo prende, lo prova, gli piace e decide di suonarlo. Ora, Bechet suonava il clarinetto e il soprano con uno stile molto particolare. Prima del prossimo ascolto vi devo spiegare una cosa. In genere, nella polifonia del primo jazz, ci sono dei ruoli molto ben definiti. La tromba, per esempio, fa la melodia. Il clarinetto o uno strumento su un registro analogo, cioè il sax soprano che sta sullo stesso registro del clarinetto più acuto, fa degli abbellimenti di accompagnamento, delle ghirlande, dei ghirigori intorno alla melodia della tromba. Bechet in realtà aveva una personalità così prepotente, così da prima donna anche, così forte, affermativa, che non si accontentava di stare in un ruolo di accompagnamento, ma tendeva a spodestare la più potente tromba e fare la parte principale, la melodia. Questo creava dei conflitti, a volte anche di personalità. Per esempio, Bechet e Armstrong si detestavano cordialmente, perché erano due prime donne, e Bechet tende a continuamente a prendersi il primo piano, anche perché obiettivamente ha un suono di una potenza pazzesca e ha un'energia nella sua musica, una carica, una forza che è assolutamente straordinaria. Allora, io voglio farvi sentire una registrazione del 1931 di un gruppo di Bechet, dove c'è tra l'altro un grande trombettista che si chiama Tommy Ledner, che è messo un po' in ombra. Il pezzo è famosissimo, è il famoso Ragtime Maple Leaf Rag di Scott Joplin. Sentite come lo suona il gruppo di Bechet e sentite che razza di treno è il sassofono soprano di Bechet che si tira dietro tutto il gruppo. Arriva. We'll be right back. Assolutamente straordinario. Tra l'altro Béchet mantenne questo rapporto intenso con l'Europa finché alla fine degli anni 40, dopo la guerra, decise di trasferirsi in quella che era diventata la sua seconda patria, cioè la Francia, e da allora fino alla morte, a metà degli anni 50, alla fine degli anni 50, Béchet è diventato a tutti gli effetti un musicista francese che ha prodotto tra l'altro dei successi che qualcuno più anziano si ricorderà o i nostri genitori si ricordano, come Petite Fleur per esempio, un disco che ebbe un enorme successo in tutta Europa nella metà degli anni 50. Ancora oggi, se andate a vedere i film di Woody Allen ambientati a Parigi, come per esempio uno degli ultimi film, Midnight in Paris, Parigi è come dire, connotata dal suono di Sidney Béchet. Béchet alla fine degli anni 30 cominciò a registrare per una neonata casa discografica che si chiamava la Blue Note. La Blue Note era stata fondata da tre personaggi, di cui qui vediamo solamente due perché non sono riuscito a trovare una foto di uno dei due. Erano Alfred Lion, che qui vedete sulla sinistra, Francis Wolff, che vedete sulla destra, e Max Margulis. Tutti e tre questi personaggi erano tedeschi ed erano ebrei. Fuggivano, in particolare Lion fuggì nel 1937 dalla Germania nazista negli Stati Uniti, Wolff lo raggiungerà due anni dopo, e loro sono diventati, insieme a Max Margulis, i fondatori di quella che oggi è considerata una delle più famose e importanti case discografiche della storia della musica del Novecento, in particolare del jazz. Non solo erano ebrei e questo li spingeva a fuggire dalla Germania nazista, ma Lion e in particolare Margulis erano anche comunisti. E quindi questo era un ulteriore elemento di persecuzione in Europa. Tra l'altro Wolff diventerà sempre meno coinvolto nella produzione dei dischi, mentre Lion sarà la mente della Blue Note e diventerà uno dei più grandi fotografi della storia del jazz. Oggi le stampe delle fotografie di Wolff sono quotate, hanno quotazioni altissime, sono dei capolavori assoluti. Il fatto che fossero ebrei e comunisti è molto importante per la questione della fondazione di questa casa discografica. Alla fine degli anni 30 ci fu un movimento intellettuale che veniva soprattutto dalla sinistra americana, quando c'era ancora un partito comunista americano, in particolare dall'ala trotskista di questo partito, prima della caccia alle streghe per capirci, che sostanzialmente faceva questo ragionamento: noi dobbiamo valorizzare la musica del popolo americano. E qual è la musica fondante? Qual è la cultura fondante del popolo americano? Non può che essere quella dei neri, perché in quest'ottica comunista i neri sono stati schiavizzati, sono cittadini di serie B se non di serie C, e quindi evidentemente le radici del folklore, del carattere più autenticamente popolare della cultura statunitense risiedono nella cultura dei neri americani. Quindi a partire dalla seconda metà degli anni 30 molti intellettuali bianchi di sinistra cominciarono a valorizzare, a studiare, a scrivere libri, a valorizzare il folklore nero. Lion, Wolff, Margulis addirittura fondarono una casa discografica. Con quale scopo? Con lo scopo di offrire ai musicisti neri una qualità di, come posso dire, una qualità di, per esempio, nella qualità di registrazione, nell'attenzione ai musicisti, nella correttezza dei rapporti d'affari, nei pagamenti, nel business, tale da poter trattare con dignità la musica dei neri. Da allora poi, come sapete, la Blue Note è diventata una casa molto importante, fu fondata tra l'altro proprio all'inizio del 1939 e uno dei primi dischi che furono fatti portava il numero di catalogo 6, questo è Alfred Lion, giovane agli inizi della fondazione della Blue Note, e era proprio il... questo 78 giri che su un lato aveva un gruppo che si chiamavano i Port of Harlem Seven, erano sette musicisti, fanno Pounding Heart Blues. Sul lato B c'era Summertime. cioè il gruppo di sette ridotto a cinque senza la tromba e il trombone, e viene fatto Summertime, che è quello che abbiamo ascoltato all'inizio. Tra l'altro Bechet aveva chiesto a, già lui lavorava anche per una grossa casa discografica all'epoca, la Victor, aveva chiesto alla Victor di fare Summertime, ma la Victor gli disse di no. Alfred Lion, che aveva invece in grande, grande rispetto le esigenze dei musicisti, accettò. Questa è l'unica fotografia che abbiamo di quella seduta di incisione con tutti e sette i musicisti, quindi mentre registrano Pounding Heart Blues, e sono il trombonista Benny Morton, c'è Bechet al clarinetto, il batterista Sidney Catlett, il chitarrista Teddy Bunn, il bassista Johnny Williams e il trombettista Frankie Newton. Non si vede nella foto il pianista Mad Lux Lewis, che è nascosto dietro il trombettista. Questo gruppo poi, quando fece Summertime, fu ridotto appunto a cinque. L'uomo all'estrema sinistra, Benny Morton, e quello all'estrema destra, Frankie Newton, diciamo, non fanno parte della registrazione. Tra l'altro, a proposito di rapporti fra jazz e cultura di sinistra, Frankie Newton, il trombettista lì a destra, era un attivista comunista, in particolare appunto del Partito Comunista Americano. Tutti loro facevano capo a un locale che si chiamava il Café Society, dove si ritrovavano molti artisti di sinistra, bianchi e neri, dove non c'era discriminazione razziale. E vorrei ricordare che il grande storico Eric Hobsbawm, che ha scritto un'importante storia sociale del jazz, che di recente è stata ristampata, siccome uno storico negli anni 50 non poteva parlare di jazz, era una cosa troppo volgare, un grande storico parlava di jazz, pubblicò la prima edizione del suo libro o i suoi primi articoli sul jazz con lo pseudonimo di Frankie Newton. Quindi si trovano ancora delle vecchie edizioni del libro, Frankie Newton, storia sociale del jazz, in realtà era Eric Hobsbawm, che appunto aveva assunto il nome di questo grande sfortunato, perché è molto giovane, trombettista. Ora vorrei con voi conoscere uno per uno i musicisti di questa seduta, escludendo Morton e Newton, che non ci sono. Di Bechet abbiamo già detto. Un altro personaggio notevole è il chitarrista Teddy Bunn. Teddy Bunn è uno di quei grandi che sono stati dimenticati, è stato un pioniere della chitarra elettrica. È stato addirittura uno dei padri del rhythm and blues. Negli anni 40 si è dato al rhythm and blues ed è stato uno di coloro che hanno definito questo nuovo genere di musica popolare. E nel disco di Bechet porta un elemento blues viscerale e al tempo stesso molto raffinato che si coglie già subito dalle prime note. Già da questo tono più pigro, più blues all'esecuzione. Il pianista ne parliamo rapidissimamente, anche se è un personaggio grande da tutti i punti di vista, come vedete, la distanza fra lo sgabello e la tastiera è completamente coperta dall'addome, diciamo. E Mad Lux Lewis in realtà poi ha fatto la fortuna, è stato uno dei primi artisti a registrare per la Blue Note. Non solo, ma è stato l'autore di quel famosissimo Honky Tonk Train Blues, che anche da noi, poi negli anni Ottanta, grazie a una sigla televisiva in cui lo suonava Keith Emerson, è diventato una specie di successo del boogie-woogie, ma lo era già negli anni 30. Qui nel disco di Bechet fa un semplice ruolo di accompagnamento, si sente e non si sente, quindi non lo approfondiamo particolarmente. Un altro personaggio apparentemente minore della scena newyorkese, il bassista Johnny Williams, che nonostante la carriera, come vedete, molto lunga, in realtà è presente solamente in poche registrazioni degli anni 40, ma comunque è un musicista, diciamo, di solida professionalità. L'altro personaggio invece veramente geniale è il batterista Sidney Catlett, purtroppo scomparso prematuramente per un infarto a 41 anni, che è stato un personaggio geniale, perché è un batterista che è stato al tempo stesso un grande maestro nello stile del jazz tradizionale, approfondiremo questo aspetto dopo, e uno dei primi grandi batteristi bop moderni. Basti dirvi che è stato il maestro ideale di Max Roach, che a Sidney Catlett ha dedicato molti brani. In quegli anni suonava, era richiestissimo perché era un grande batterista, e di lì a poco entrerà negli All Stars di Louis Armstrong. Torneremo dopo su, su Cutlet. Io adesso vorrei pian piano farvi entrare nelle pieghe del brano, ascoltando il dialogo che c'è fra questi musicisti. Uno degli aspetti chiave della, di questa registrazione di Summertime è il dialogo fra la chitarra e il sax soprano. Ci sono molti momenti in cui i due strumenti dialogano. Ora, attenzione, nel pezzo c'è un filo comune. Questo filo comune è il fatto che la melodia si deve sempre sentire. Non c'è l'improvvisazione nel senso tradizionale, per cui, moderno, per cui io sono qualcosa che esula dalla melodia e mi invento delle cose mie. Qui e lì accade, ma sostanzialmente il filo della melodia di Summertime è sempre percepibile. Principalmente è la chitarra, è il sassofono a tenerlo. La chitarra fa d'accompagnamento. Sentirete che c'è un punto invece in cui la chitarra fa la melodia e il sassofono invece improvvisa, scambiandosi praticamente i ruoli. All'inizio Teddy Bunn suona principalmente un accompagnamento blues, ma a un certo punto si mette a suonare l'accompagnamento, sulla chitarra, attenzione, l'accompagnamento orchestrale pensato da Gershwin. È più facile ascoltarlo che spiegarlo. Questo è un estratto dalla foto. Qui nella foto vedete Bechet suonare il clarinetto, ma ovviamente nel disco suona il sax soprano. Ascoltate. Qui accompagna. E qui invece fa l'accompagnamento scritto da Gershwin. Ve lo faccio sentire meglio. È probabile che Teddy Bunn avesse fatto riferimento direttamente a un ascolto che aveva fatto, forse aveva davanti lo spartito, si era studiato, dove c'è proprio questo accompagnamento tu di da da, do di da da, bo di da da, e quindi l'abbia assimilato da quella fonte scritta. Un altro passaggio in cui la chitarra e il sax dialogano. Fa il tema, attenzione. C'è un ultimo frammento in cui questo elemento blues, avete sentito, si sente in maniera più marcata. Dopo l'esecuzione del primo ritornello, in cui Bechet suona questa melodia di Summertime, nel secondo ritornello Bechet a un certo punto suona una strana cosa. Qualcuno ha indovinato cos'era? Non ci posso credere. È vero che è una lezione di... Scusate, ho il faro. È vero che è una lezione di jazz, ma nessuno alza la mano? Beh, tutti bocciati. Vado via. Vi lascio 10 minuti. È una citazione, c'è qualcuno pure che porta la giustificazione dei genitori, addirittura, siamo. È una citazione dal Trovatore di Verdi. Voi direte, ma io sono un jazzofilo, è musica, è sempre musica, non è una cosa brutta, sporca. È il Miserere dal Trovatore di Verdi, 1853, questa aria con accompagnamento corale. Com'è possibile che Bechet citi Giuseppe Verdi dentro, attenzione perché la cosa è vertiginosa, dentro il rifacimento jazz di un'aria d'opera di un ebreo che scrive di cultura afroamericana citando una melodia che forse è uno spirituolo, forse è yiddish ucraina? Voi ci ridete, ma è così. Allora, andiamo a scoprire come e perché. Morton lo vediamo dopo, compare ogni tanto. La prima cosa che voglio farvi sentire è Frances Alda e Enrico Caruso che nel 1910 cantano questo frammento dal Trovatore di Verdi. Come per esempio anche la Lucia di Lammermoor o Rigoletto o più tardi Pagliacci e Cavalleria Rusticana erano molto popolari a New Orleans e soprattutto i musicisti creoli, ma non solo, anche i neri come Louis Armstrong adoravano l'opera italiana. New Orleans aveva una straordinaria tradizione operistica, è stata una delle prime città statunitensi ad avere un teatro d'opera, ma non statunitensi, prima, quando era colonia spagnola in particolare. Si è formata una cultura musicale di base molto intensa e i musicisti che avevano una qualche radice nell'Europa, come per esempio i Bechet, che quindi avevano fondamentalmente una cultura creola mista francese nera, avevano più facilmente accesso per esempio al teatro, potevano andare a vedere l'opera. I manuali, per esempio, di strumento come il clarinetto arrivavano dal Conservatorio di Parigi. A New Orleans arrivavano le compagnie europee con i grandi cantanti. New Orleans, alla metà dell'Ottocento, aveva 2 teatri d'opera, più di quanti ne abbia Roma in questo momento. Anzi, in Roma c'era mezzo, quasi. C'era un'attività musicale densissima e l'opera italiana era parte, come lo era d'altronde, che lo sapete bene, anche in Europa, in particolare in Italia, era parte della cultura popolare. I musicisti neri e quelli che poi si dedicheranno al jazz amavano e conoscevano profondamente l'opera. In particolare, il Miserere del Trovatore aveva conosciuto diversi adattamenti per pianoforte. Un altro musicista di origine creola, cioè misto francese e nera, Ferdinand Lamothe, che si faceva chiamare Jelly Roll Morton, a cui prima o poi dovremo dedicare naturalmente una qualche lezione di jazz, per esempio nel 1938, ricordando al musicologo Alan Lomax quello che lui suonava da ragazzo a New Orleans, a un certo punto si mette a suonare un suo adattamento pianistico del Trovatore, e lo dice anche. Chiedo scusa, c'è un piccolo errore nell'ordine degli ascolti, quindi passo, faccio così, scusate. Sta andando a memoria, eh? Sta ricordando le cose che suonava da giovane. Questo è uno dei padri del jazz, sta suonando Verdi. Con Alan Lomax. Well, I don't remember now. All'inizio dice che non si ricorda che roba è, si schernisce. Yeah. Un nero che parla di musica classica. Lomax in no doubt did, but I was kind of young at the time. Quello dice. This is Miserere from Il Trovatore. Miserere from Trovatore. Ok? L'altro. Due minuti dopo Morton spiega anche che a New Orleans usavano prendere questi pezzi classici e farne una base per l'improvvisazione jazz, e ne dà una dimostrazione. Insomma, l'elemento operistico italiano è connaturato alla nascita del jazz, ma addirittura è connaturato allo stile di Sidney Bechet. Bechet non ha mai fatto mistero del fatto che il suo modo di fraseggiare, e soprattutto il vibrato, fosse modellato sul vibrato di Enrico Caruso. Cioè lui aveva come idea sul clarinetto e poi sul sax soprano, ma vedremo che il soprano implica una questione di genere sessuale anche particolare, perché sta su nel registro di soprano, appunto, è una voce femminile, ma l'idea è che quel vibrato così ampio, che abbiamo sentito anche in Meeple & Fragg prima, era proprio modellato sui dischi di Enrico Caruso. Vorrei farvi apprezzare un esempio. La vo cantar la frase che va fuori. Ecco, questo carattere stentoreo di proiezione potente della voce, con questo vibrato che dà una vita interna al suono, e anche questo carattere, se volete, teatrale, quasi melodrammatico della voce, viene ripreso pari pari da Bechet sul suo clarinetto, sul suo soprano, un frammento di Indian Summer dei primi anni 40. Ma il registro è quello di una voce femminile, ma il tipo di teatralità è uguale. Slanci, proprio molto da cantante d'opera, c'ha uno strumento in mano ma è come se cantasse. Però quando Bechet cita il trovatore, il miserere, non lo suona come l'avrebbe cantato Caruso, ma fa un'operazione curiosa, cioè lo suona con il growl, cioè con una specie di gorgoglio in cui forza il suono dello strumento e gli dà un carattere squisitamente nero, un carattere afroamericano che non ha niente a che fare con l'opera italiana, con quel modo di cantare. La melodia è quella di Verdi, ma il modo di cantare è blues, è viscerale, è degli ex schiavi. Bechet ha scritto un'autobiografia che si chiamava Treat It Gentle, Trattalo Gentilmente, che per un manesco come lui è un titolo così antifrastico, diciamo, come minimo. Bechet racconta, parte da un mito di suo nonno Omar, che è uno schiavo. Lui sa benissimo che suo nonno era uno schiavo. E da lì fa discendere tutta la sua passione per la musica. E quindi in questo growl ci mette qualcosa di arcaico, di viscerale, di ancestrale, che sconvolge il suono di Verdi. E questo, sapete come si chiama nella cultura afroamericana? C'è un grande letterato che l'ha spiegato, si chiama signifying, cioè che vuol dire significare. In realtà nel gergo afroamericano to signify vuol dire prendere per il culo. Scusate l'espressione, ma è proprio il significato, la traduzione esatta. Rovesciare di senso. Prendere una cosa, Verdi, la rigiro come un calzino e ne faccio venire fuori un'altra cosa. Il growl permette, come sentirete adesso, a Bechet di trasformare la citazione operistica in una frase blues. L'uso del growl, peraltro, è caratteristico dello stile di Bechet e sentirete altri due punti di seguito in cui lui le usa all'interno di Summertime. E il significato. Sono pulito. E poi più avanti. E poi alla fine. Proprio in quel frammento finale. Poi tanto lo sentiremo per intero. Tra l'altro questo ha a che fare molto con l'inserimento di della voce sullo strumento, nella deformazione, nella trasformazione di uno strumento occidentale in qualcosa che ha a che fare invece con una cultura che occidentale non è. Andiamo verso la fine e a un certo punto sentirete, poi quando lo sentiremo per intero vi sarà chiaro, man mano che il pezzo va avanti, Bechet tende a salire di registro, a un certo punto diminuisce, sale ma diminuisce di dinamica e poi arriva sull'ultimo ritornello in cui va su e soprattutto comincia a dare un maggiore impulso ritmico alle frasi. Questo impulso ritmico viene raccolto dal batterista Sidney Catlett, dal grande batterista Sidney Catlett, che a un certo punto fa una cosa inaspettata. Comincia ad accompagnare facendo quelli che tecnicamente si chiamano i press rolls, cioè delle rullate. Trrrda, trrrda, trrrda. Queste rullate sono caratteristiche della marcia, quindi viene introdotto un elemento apparentemente estraneo, sono caratteristiche della marcia, e sono caratteristiche dei funerali New Orleans. È come se questa melopea, forse di origine ucraina, forse di origine afroamericana, riproposta al sax soprano, con le citazioni verdiane in mezzo, a un certo punto diventasse un solenne funerale New Orleans, un gran finale, come dire, drammatico e toccante. La batteria raccoglie il ritmo. Ta-ta. Alla fine, dove ho sfumato, c'è un'altra cosa che ricollega profondamente Bechet alla tradizione dei grandi cantanti, la cadenza finale, che qui è piuttosto breve, ma dal vivo poteva essere più lunga, in altre versioni che Bechet ha registrato più tardi sono più lunghe. Cioè il fatto, cos'è la cadenza finale? Quando il solista rimane da solo e fa una specie di ghirigoro virtuosistico in solitudine, sospeso nel vuoto, in attesa dell'accordo finale. E qui, tra l'altro, si percepisce questa sorta di paradosso di genere sessuale, cioè di una voce che è modellata su quella di un tenore, di una voce maschile, quella di Caruso, ma che sta nel registro della voce femminile. D'altra parte ci dobbiamo chiedere anche perché Bechet suona questo pezzo col soprano e non con il clarinetto, perché evidentemente il soprano è più vicino al registro, al colore, alla voce del personaggio di Clara in Porgy and Bess. C'è una, come dire, c'è una voluta aderenza a quel tipo di modello. In altri casi, in futuro, ci saranno musicisti che coscientemente si oppongono a quel modello. Quando Coltrane nel 60 registrerà Summertime, lo farà col sax tenore. Quindi, come dire, per farlo su un registro completamente diverso. Quindi, il Summertime di Bechet si conclude con il growl e una salita, un glissando, che è come quello di un soprano lirico, fino all'accordo finale. Ora, prima di chiudere, vorrei fare una, e di riascoltare il brano per intero, una rapida riflessione sullo stile di Bechet e rispetto ai grandi maestri del sax soprano. Il sax soprano è rimasto uno strumento tutto sommato, diciamo, limitato a pochi musicisti che lo praticano in maniera regolare. E alla fine poi uno solo, Steve Lacy, lo ha praticato come unico strumento, in genere viene associato a qualche altro strumento. Bechet suonava il clarinetto e il sax soprano, Coltrane suonava il tenore e il sax soprano, e così tutti gli altri, a parte Steve Lacy, appunto. Questi sono i principali maestri del sax soprano, approssimativamente in ordine cronologico, qualche nome vi sarà più familiare, qualcun altro meno familiare, a mio avviso sono una sorta di costellazione dei più grandi solisti di questo strumento. Ma lo stile di Bechet è rimasto per certi versi unico. Sicuramente io ho messo John Coltrane al centro perché è il musicista poi che ha dato un suono al sax soprano che poi è stato il più imitato in assoluto. Va anche detto una cosa, che per molto tempo Sidney Bechet è stato l'unico sopranista della storia del jazz. L'unico a suonare quello strumento. Un altro che ogni tanto lo suonava era, come solista dico, non in orchestra, come solista, era qualche volta Johnny Hodges, che era stato suo allievo, tra l'altro, nell'orchestra di Duke Ellington. Bisognerà aspettare agli anni 50 quando compare Steve Lacy, che è stato l'unico musicista, che io sappia, qualcuno può smentirmi, che si è dedicato esclusivamente al sax soprano, allievo di Thelonious Monk, tra l'altro musicista che ha frequentato tanto anche l'Italia. Poi nel 1960 compare My Favorite Things di John Coltrane con il sax soprano, lo strumento prende una strada completamente diversa che porta poi a seguaci originalissimi come per esempio Wayne Shorter. E poi bisognerà aspettare Evan Parker alla fine degli anni 60 per trovare, anzi più negli anni 70, per trovare sul soprano un approccio solistico, l'inglese Evan Parker, completamente nuovo. In questo senso il suono di Bechet, con questa sua caratteristica che qualcuno ha definito perfino belante, no? Con questo vibrato ampio, questo suono così largo, rimane unico. E all'interno di questa esecuzione di Summertime, così particolare, è veramente un elemento di straordinaria suggestione. Perché? Perché ha qualcosa di una sorta di oboe antico. Il titolo che ho dato a questa conferenza è Canto di un pastore errante, non perché adesso va di moda Leopardi, perché il titolo l'avevo deciso prima che uscisse il film, tanto per chiarire, non faccio parte del marketing del film, che peraltro mi è piaciuto, ma questo canto di pastore errante perché c'è veramente qualcosa di pastorale, qualcosa di arcaico in questo oboe vagamente orientaleggiante, che è il sax soprano di Bechet, che non suona come un sassofono, ma suona come un altro tipo di strumento. In questo senso Bechet ha avuto una forza, una personalità straordinaria per imprimere questo suono unico, tant'è che poi Lacy, Coltrane hanno dovuto prendere una strada completamente diversa per smarcarsi da quel tipo di suono, che è quello che dà questa suggestione particolare a Summertime. Allora io con voi vorrei riascoltare tutto Summertime di Bechet, non senza aver prima fatto un riassunto, come dire, schematico, concettuale, delle tante tematiche che abbiamo toccato, per farvi cogliere anche la stratificazione di significati, semantica che c'è all'interno, no? Riassumiamola insieme, abbiamo queste due grandi personalità, l'autore di Summertime che è George Gershwin, un ebreo di origine russa, e il nero francese Sidney Bechet. Entrambi sono stati profondamente influenzati dalla cultura afroamericana, che è centrale nella loro opera, ovviamente, ma entrambi hanno avuto una profonda influenza anche dall'opera italiana. Ovviamente Bechet veniva da New Orleans, e quindi tutta la tradizione creola, abbiamo visto di New Orleans, di sintesi di musica europea, spiritual, blues, l'abbiamo citato, si fonde nelle origini del jazz, di cui Bechet è stato uno dei padri alla fine del jazz. La cultura ebraica è fondamentale per Gershwin, ma lo è stata anche per Lyon e Wolf, per i fondatori della Blue Note, come che però ovviamente volevano valorizzare la cultura afroamericana. E dobbiamo ringraziare Lyon e Wolf che hanno incontrato Sidney Bechet, gli hanno offerto questa opportunità. Tra l'altro un'opportunità che ha pagato, perché la Blue Note è diventata una casa discografica importante grazie a questo disco. Summertime di Bechet è il primo successo della Blue Note, su cui poi Alfred Lyon costruirà un piccolo impero che è arrivato, come sapete, fino ad oggi a diventare una delle etichette più prestigiose della storia discografica, un logo che è sinonimo di qualità. Con questa cosa in mente vi invito ad un riascolto riassuntivo di Summertime. Bye. fondo il segreto della riuscita di questo Summertime sta in qualcosa che nella registrazione di Billie Holiday non c'era, cioè Bechet ha colto quel carattere di canto intimo, solitario, notturno, a cui ha aggiunto un tono pastorale molto particolare, ma ha colto quell'elemento di dramma malinconico, se vogliamo perfino di piccola menzogna raccontata a un bambino nella Ninna Nanna dicendo che tutto il mondo va bene anche se intorno c'è la miseria, e ha trasformato questo canto solitario in una specie di grande poema epico, e credo che qui stia la suggestione di questo capolavoro. Grazie. Grazie. Grazie.